Chiudo gli occhi per nascondermi dal buio incombente, dalla terra che trema e niente fermerà. Chiudo gli occhi davanti all'evidenza che di guerra l'uomo non può stare senza. E mi tappo le orecchie per non ascoltare il suono delle sirene che spaccano il cielo. Non voglio ascoltare questa sofferenza, meglio due note in croce e qualche rima. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Mi lavo le mani dal suo sangue innocente. Il coraggio non va di moda come virtù. Mi lavo le mani dalla polvere. Aspetterò qui seduto il mio destino. E mi tappo anche il naso perché c'è puzza di un marcio che contamina la mia ombra. Così semino pace ma raccolgo odio, perché con questa realtà non c'entro più niente. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Consegnatevi pure ad un nuovo Dio. Consegnati pure ad un nuovo Dio. Consegnami pure ad un nuovo Dio. Il suo nome è Lio. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Dove corri, dove corri? Dove scappi, ti nascondi? La terra è aperta, tutto il mondo è già in guerra. Dove corri, dove corri? Dove scappi, ti nascondi? La terra mi è aperta, tutto il mondo è già in guerra. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate Barabba, la folla urlò. Liberate, liberate. Liberate Barabba, la coscienza urlò.